A bordo campo di Dario Ricci. La sigletta, l'inno è diverso da quello che conosciamo della Champions League degli uomini, ma la passione, la gioia, l'amore per il calcio è del tutto uguale. Allora, oggi a bordo campo vi raccontiamo la Champions League, sì, ma la Women's Champions League, la Coppa dei Campioni delle Donne, anche questo torneo che ha la sua tradizione, la sua importanza in Europa e che vede protagoniste, ha visto protagoniste le ragazze italiane del Brescia Calcio, le leonesse di Brescia che ai loro hanno però incrociato forse la squadra più forte al mondo, le francesi del Lione, due coppe vinte e altrettante finali disputate negli ultimi 5 anni, una superpotenza, e per le nostre ragazze non c'è stato niente da fare. Però questo incrocio che l'urna ha riservato alle leonesse è per noi di A Bordo Campo l'occasione per fare il punto sul calcio femminile in Italia e nel mondo, e scopriremo alla fine di queste chiacchierate due dimensioni davvero differenti e senza un vero motivo alla fine. Allora, nostra prima ospite, Elena Linari, classe 1994, studentessa, difensore centrale delle leonesse di Brescia. Ben trovata Elena a bordo campo. Beh, certo, dall'urna del sorteggio avversario peggiore non vi poteva capitare, eh? Sì, diciamo che poteva capitarci un sorteggio migliore, però è stato importante anche capire subito, insomma, il livello che bisognerebbe raggiungere noi in primis come squadra, ma più che altro il livello del calcio femminile italiano, che per competere a livello internazionale deve cercare almeno di ambire a livello del Lione. Ecco, cosa ci manca? Tante cose, adesso ne parliamo, però ecco, dal punto di vista tecnico qual è la differenza maggiore che dal campo hai riscontrato? Beh, il fatto che comunque loro, cioè, si muovono come se fossero degli uomini, e questo ancora nel campo femminile non c'è in Italia. E lo sprint, la rapidità, la visione di gioco sono tutte identiche a quelle che io vedo guardando il calcio maschile in Serie A e il calcio maschile in tutta Europa. Questa è stata la cosa che mi ha maggiormente colpito. Poi ovviamente, vabbè, la velocità, la rapidità di esecuzione dei movimenti, ma queste vengono tutte perché il livello è molto alto. Ecco, noi di solito come italiani passiamo come maghi della tattica, invece le straniere anche da questo punto di vista ci fregano a livello femminile? A questo, ora come ora direi di no, perché, cioè, in piccole cose sì, però ovviamente quando affronti squadre così, così forti, che hanno giocatrici così importanti, perché non si limitano a prenderle dalla Francia e dal vivaio. E nel Lione ci sono anche le migliori giocatrici d'Europa, e che ne so, in attacco c'era la Schelling, che è svedese. Insomma, raggiunge un livello veramente veramente alto, quindi sì, forse casomai tatticamente non sono pignoli quanto noi, però riescono comunque a sopperire a questa minima mancanza in altri modi. Quindi, insomma, è davvero davvero dura. Tra l'altro sono tutte professioniste, cosa che voi magari non siete. Tu che fai? Lavori, immagino? No, io studio. Ah, che fa università, che fai? Sì, qua a Brescia faccio scienze motorie. Ah, beh, almeno, insomma, diciamo anche gli allenamenti sono funzionali, no? Gli studi. Sì, no, cioè, almeno io ho preferito rimanere nell'ambito comunque sportivo. Sì, beh, però comunque la differenza la fa il fatto che loro appunto sono professioniste e la vivono proprio 24 ore su 24, vivono il calcio come un loro lavoro. Mentre noi sfortunatamente non è così, c'è chi studia, c'è chi addirittura lavora, chi deve prendere ferie per fare questi 3 giorni a Lione, cioè è un paradosso. E quindi davvero è una strada tutta in salita. Ti chiedo ancora cosa bisogna fare per provare a colmare questo gap, no? Secondo me intanto buttare giù un progetto che però non può essere a breve termine, un progetto a lungo termine, e sicuramente investire. Cominciare ad investire chiamando in aiuto nostro le squadre maschili, perché all'estero è così. E la Francia ha cominciato ad investire 10 e forse anche più anni fa, e adesso sta avendo i frutti di questo investimento. Insomma, hanno deciso le società maschili di avere società femminili e hanno cominciato a dare in piccola parte dei soldi, che piano piano ovviamente sono aumentati perché il livello del campionato è salito, molte giocatrici anche estere sono volute andare insomma, a giocare in Francia, e quindi ovviamente il livello si è alzato e dovrebbe succedere anche così in Italia, ma ancora non siamo su questa strada. Beh, Elena, direi innanzitutto sì, c'è tanta strada da fare, ma mi sembri tu personalmente ben incamminata perché parli già da futuro dirigente, quindi è il futuro che ti. Vabbè, cioè, il fatto è che sfortunatamente tra noi ragazze spesso parliamo di queste cose, perché soprattutto dopo la partita contro il Lione, ha fatto bene ma ha fatto male allo stesso tempo, perché comunque vedere questa grande differenza con ragazze che alla fine sono come noi, che noi sappiamo che se avessimo le loro stesse, insomma, possibilità, potremmo far qualcosa in più, però il problema è che ovviamente ci hanno superato in tutto. Se anni fa l'Italia era una delle nazionali più forti a livello anche femminile, adesso sfortunatamente non è così, perché appunto c'è questa professionalità che manca. Grazie a Elena Linari per essere stata nostra ospite qui a bordo campo. Passiamo a quello che è, oddio, mi viene da dire il mister, ma forse la missis a questo punto delle Leonesse Brescia, cioè l'allenatrice Milena Bertolini. Milena, ben ritrovata. Dicevamo, squadra certo non fatta da professioniste, quali sono allora i lavori, le professioni più diffuse fra le tue ragazze che si dividono tra il campo e appunto l'attività lavorativa di tutti i giorni? Ma diciamo che la maggior parte delle ragazze studia, perché la mia è una squadra molto giovane e quindi studiano e vanno all'università, ma altrimenti c'è chi fa l'impiegata, chi fa l'educatrice, chi fa rappresentante. Spesso fanno rappresentante anche perché magari fanno lavori di questo tipo che ti permettono di avere flessibilità e per poter poi partecipare agli allenamenti, alle partite. Considera che noi giochiamo di sabato, quindi giocando di sabato certi lavori sono preclusi. Insomma, sicuramente contesti diversi che si incrociano sul campo, ma ecco, qual è l'insegnamento che rimane da questa edizione della Champions League in gonnella? Ma l'insegnamento rimane che il calcio femminile, se ci si crede in questo movimento, e io mi auguro che la federazione dia un impulso, anche se ormai tutte noi del movimento abbiamo un po' perso le speranze, perché ogni anno si parla di progetti, progetti, progetti, ma poi non si fa mai niente nel concreto. L'insegnamento è che il calcio femminile veramente può raggiungere dei livelli altissimi e che le nostre ragazze, le mie ragazze, quelle che alleno io, comunque hanno dimostrato che possono competere se vengono messe nelle stesse condizioni. E poi che il calcio femminile può essere se vogliamo usare questo termine, un prodotto appetibile, perché lo spettacolo è veramente uno spettacolo di alto livello, quando si gioca a questi livelli. Nostra ultima ospite, Martina Angelini, commentatrice del calcio femminile per Eurosport. Allora Martina, ben trovata. Beh, allora c'è la Champions come gli uomini, i mondiali, le coppe internazionali, ma allora il calcio femminile è in tutto e per tutto uguale a quello maschile. Sì, tra l'altro la UEFA e anche la FIFA trattano da ormai tanti anni il calcio femminile esattamente come quello maschile. Decisione della UEFA di 5 anni fa è quella di organizzare la finale femminile nella stessa sede della maschile, ma 2 sere prima, appunto per dare visibilità. Io infatti ho avuto la fortuna quest'anno di essere a Lisbona commentando la finale per Eurosport, e ho visto proprio come la manifestazione veniva data, cioè il villaggio della Champions con le foto delle giocatrici accanto a quelle dei giocatori. Quindi è una manifestazione ormai importantissima per la UEFA, esattamente come la finale maschile. Ecco, da tifoso osservatore ricordo ad esempio anche il grandissimo successo di pubblico dei recenti mondiali in Germania, no? Stadi pieni così come per il mondiale maschile. Sì, ma all'estero non c'è tanta differenza, cioè io penso che poi in quei paesi dove c'è passione per il calcio, a parte ancora l'Italia, poi prima o poi magari ci arriveremo, quando siamo il calcio siamo tutto, cioè siamo il calcio giocato dagli uomini, dalle donne, dai bambini, dalle bambine, perché poi la passione per il calcio deve essere una passione a 360 gradi. Io ho avuto la fortuna di commentare una finale anche olimpica a Wembley con 80.000 persone, dove in campo c'erano tra l'altro Stati Uniti e Giappone, non certo l'Inghilterra, quindi la Germania è avanti a noi, sono partiti prima, però all'estero c'è tantissimo successo di pubblico per il calcio femminile. Ecco, hai citato un altro esempio, quello statunitense, dove il football, o meglio il soccer al femminile, è forse lo sport universitario più praticato, quasi, no? Sì, il calcio negli Stati Uniti è considerato uno sport da donna, cioè nasce come sport femminile. Adesso io ho sentito dopo i recenti mondiali maschili utilizzare l'espressione c'è il boom del calcio negli Stati Uniti. No, non è vero, c'è il boom del calcio maschile negli Stati Uniti, perché le donne giocano a calcio da sempre e hanno ottenuto tantissimi successi. In questo momento gli statunitensi sono la più forte squadra del mondo e quindi lì sono molto molto avanti, si parla di 5 milioni di praticanti, le bambine cominciano a giocare da piccolissime, a 4-5 anni. E l'Italia? Perché da noi non sfonda questo calcio femminile? Ma senti, sarebbe un discorso, io ti posso rispondere col fatto che siamo indietro a livello di cultura sportiva, forse siamo indietro culturalmente da tutti i punti di vista, però sarebbe un discorso più lungo. Da noi forse si fa ancora fatica a credere che una donna possa fare una cosa bene come un uomo, una cosa ritenuta maschile. Noi abbiamo ancora molto scetticismo, io vedo tante bambine che iniziano a giocare tardi perché passano tanti anni a cercare di convincere le famiglie. Arrivano a giocare, i maschi cominciano molto presto, cominciano a 4-5 anni, le bambine arrivano a 10-11 anni perché comunque ci sono dei genitori che ancora credono che appunto il calcio sia uno sport da maschietti. Invece alla fine non è così, si deve cominciare appunto fin da piccoli a giocare. I numeri da noi sono assolutamente impietosi, cioè io ti faccio un esempio banale, la Danimarca, che è un paese dove ci sono 5 milioni di abitanti, ha quasi 80.000 praticanti a livello di calcio, noi che siamo 60 milioni abbiamo 20.000 ragazze che giocano a calcio, quindi abbiamo dei numeri nettamente inferiori all'estero. Speriamo che prima o poi anche da noi si accorgano che anche il calcio femminile è uno sport bello da vedere e anche, passami l'espressione, anche un prodotto vendibile, diciamo. E allora speriamo che il prossimo anno le leonesse abbiano maggiore fortuna in Champions, le leonesse o comunque la squadra che sarà campione d'Italia. A bordo campo. Giorgio Chiellini, 1-0. Calcio d'angolo dentro, autogol, e 1-1, autogol, incredibile, a 15 dalla fine. Giovincola mette giù, poi arriva il traversone, Chiellini, doppietta di Giorgio Chiellini, e 2-1, doppietta di Chiellini. Ce la siamo vista davvero brutta in questa sfida con l'Azerbaigian a Palermo, in una gara vinta 2-1 dalla nazionale di Antonio Conte e tutta firmata da Giorgio Chiellini, protagonista dei due gol azzurri ma anche dell'autogol per gli azzeri. Beh, è stata una sfida di cui oggi vogliamo approfondire alcuni aspetti a bordo campo, perché ci ha permesso di tornare ad incrociare un paese, l'Azerbaigian, che si sta affermando insieme a altre realtà della ex Unione Sovietica come nuova frontiera dello sport europeo e, perché no, anche mondiale. Ne parliamo oggi con il nostro primo ospite, amico di A Bordo Campo, Damiano Benzoni, blogger che cura il blog Africalcio, ma anche e soprattutto Dinamo Babel, dedicato proprio ai paesi dell'est europeo e al calcio in questi paesi. Ben trovato, ben ritrovato, Damiano. Buongiorno Dario. Allora, Damiano, entriamo subito nel cuore del nostro discorso. L'Azerbaigian si sta imponendo come nuovo brand internazionale a livello sportivo. Basti pensare che nel prossimo giugno ospiterà anche la prima edizione dei Giochi Olimpici Europei, tanto per fare un esempio. Direi che è una strategia di comunicazione ben precisa da parte di Baku, no? Sì, la nuova ricchezza petrolifera ha un po' dato la necessità al paese di far conoscere il proprio nome nel mondo. Il calcio è una delle componenti, il calcio e lo sport in generale è una delle componenti di questa politica. Non solo lo sport, per esempio, è passato anche dal fatto che la capitale ha ospitato il Festival dell'Eurovisione, ma gli eventi in futuro sono tanti: ci sono le Olimpiadi Europee del 2015, c'è l'Europeo Under 17 nel 2016, il Gran Premio di Formula 1, e nel 2020 c'è il grande traguardo, l'Europeo di Platini. Quindi tra le 13 location in altrettanti paesi ci sarà proprio anche Baku, al pari dell'Olimpico di Roma, dell'Allianz Arena, ospiterà un quarto di finale dell'Europeo. È una politica che passa anche attraverso molte partnership, molte sponsorship. Quella più clamorosa è quella dell'Atletico Madrid, la prima squadra che è stata sponsorizzata da uno Stato, una sponsorizzazione triennale di 12 milioni di euro l'anno da parte dell'ente del turismo, che ha proiettato l'immagine dell'Azerbaigian nel mondo e ha anche aiutato a promuovere relazioni bilaterali tra la Spagna e l'Azerbaigian. Tra l'altro, clamorosa, qualche settimana fa è stata annunciata una partnership con il Manchester United per lo sviluppo del settore giovanile della Federcalcio Azzera. E insomma, scusate se poco, viste i nomi di questi due top team calcistici. A proposito di Inghilterra, va ricordato, Damiano, e so che tu sei un cultore di queste chicche, che c'è stato un 1-0 davvero famoso che a suo modo ha disputato una finale della Coppa del Mondo di calcio e a cui addirittura è intitolato uno stadio nella capitale Baku, vero? Esatto, l'attuale stadio nazionale è dedicato a Tafik Bakhramov, che era un arbitro appunto a zero ed è più conosciuto al mondo, soprattutto in Inghilterra e in Germania, come il guardialine sovietico. Fu lui ad assegnare nel mondiale del 66 il dibattuto 3-2 inglese segnato da Geoff Hurst, che spezzò la partita e permise poi agli inglesi di imporsi per 4-2 sulla Germania Ovest. I calciatori non sono arrivati così in fondo. Un calciatore, Anatoly Banishevsky, in quello stesso mondiale arrivò con l'Unione Sovietica in semifinale, un giocatore con una storia poi tragica perché fu stroncato da un coma diabetico, da un rapporto con l'alcol piuttosto problematico. Insomma, sì, ecco, storie che entrano nella grande storia del calcio. Ma a proposito del calcio attuale in Azerbaigian, forte è la connessione tra i vari club e la realtà economica, politica e finanziaria, vero? Certo, le due squadre principali della capitale, NFC e l'FK, sono sponsorizzate, una da Socar, che è la compagnia statale del petrolio e del gas, che è fra i maggiori sponsor della UEFA ed è presieduta da un parlamentare. L'FK Baku invece da Hafiz Mamadov, che è il proprietario di una holding che si occupa di petrolio, gas, costruzione e trasporti, ed è anche azionista sia dell'Atletico Madrid sia del Porto. Poi c'è il Kazar Lankaran, che è posseduta da un magnate a zero del settore navale turco, Mubariz Mansimov. Lui a zero è cittadino turco ed è un ex agente dell'intelligence sovietica. Ha 46 anni ed è il miliardario più giovane di Turchia, e la sua azienda è la quinta azienda navale più grande al mondo. E la squadra è stata fondata da lui nel 2004 ed è tutta a tema navale, è soprannominata Gemici Kler, ovvero costruttori di navi. Lo stemma richiama un timone e un'ancora, e il principale gruppo di tifosi si chiama Firtina, ovvero la tempesta. E poi c'è anche la storia del Karabakh Agdam, che è sponsorizzato da una corporazione governativa nel settore alimentare e agricolo, e Karabakh ha questa identità piuttosto forte, visto che viene da una città che è stata rasa al suolo nel conflitto del Nagorno-Karabakh, e questa holding è proprio molto attiva in progetti di aiuto per i rifugiati del Nagorno-Karabakh, e la sponsorizzazione del Karabakh è considerata anche proprio una pietra angolare della strategia sociale di questa holding. E beh, insomma, sentite quante curiosità e quanti legami anche importanti con il tessuto socio-economico tra il calcio e proprio questo tessuto in Azerbaigian, e sappiamo bene, non solo. Beh, Damiano, sei davvero un pozzo di sapere rispetto al calcio dell'Est. Intanto ti ringrazio per essere ritornato qui a Bordo Campo, ti aspettiamo sempre volentieri, e poi invito tutti a andare a scoprire altre curiosità su Dinamo Babel. Davvero rimarrete incollati al PC, eh? Grazie a te, buona serata. E allora, avete sentito il nostro Damiano Benzoni che ci ha raccontato e descritto la situazione del calcio, ma più in generale dello sport in Azerbaigian. Ora una piccola chicca, sì, perché c'è anche un pizzico di Italia, al di là di quelli che saranno gli atleti protagonisti, che sta già scendendo in campo per i prossimi giochi europei previsti dal 12 al 28 giugno nella capitale azera, Baku. Ebbene, da chi è rappresentato questo piccolo d'Italia? Da Angelo Spampinato, 36enne architetto siciliano, esperto in stadi, che sta curando l'adattamento degli impianti alle particolari esigenze di queste gare. Tra l'altro, Spampinato sarà coinvolto anche nel progetto del Parco Olimpico di Rio 2016. Allora, proprio da Baku, via Skype, ci ha dato questa piccola testimonianza di quello che sta avvenendo nella capitale azera in vista dei giochi europei 2015. Baku si sta preparando per ospitare i primi giochi europei con questo impianto da 68.000 posti, attualmente in fase di completamento, e i lavori stanno procedendo veramente in maniera velocissima. Si può vedere, ecco, quotidianamente l'avanzamento. Sarà uno stadio di livello internazionale, in grado di offrire alti standard di comfort per gli spettatori e anche per gli atleti. Uno stadio anche omologato per gare di calcio dalla UEFA e dalla FIFA. Anche per l'appuntamento odierno con A Bordo Campo è tutto. Un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, riascoltarci dal nostro sito radio24.it, da cui potete scaricare anche il podcast delle puntate di A Bordo Campo. Ora spazio a Giovanni Capuano con tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima dalle 16.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona serata da Dario Ricci.